L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti da Achille Corea, questa è Radio 24 e questa è l'Italia vista dallo spazio. Martedì 28 agosto, siamo alle ultime puntate, siamo agli ultimi posti disponibili sulla nostra astronave virtuale spaziale che venerdì lanceremo nello spazio con dentro 24 simboli dell'Italia, o meglio dell'Italia come vorremmo che fosse, come ci piacerebbe che fosse vista nel mondo. E noi stiamo infilando un po' di tutto dentro questa astronave, perché poi si sa come succede con le partenze, cerchi di metterci dentro tutto quanto, tutto il possibile, di non ritrovarti poi con il dubbio: oddio, ma mi sarò portato questo, mi sarò portato quell'altro, non è che era meglio portarsi anche quest'altro ancora? E però c'è una cosa che non possiamo portare: non ci possiamo portare casa. Come quando si parte per le vacanze, c'è proprio la frase: non puoi portarti dietro casa. E questo per noi italiani è una tragedia, perché la casa per noi è importantissima, che sia in affitto, che sia di proprietà, cioè noi alla casa ci teniamo, per noi la casa è un simbolo, per noi la casa è un mito, e soprattutto per noi la casa è un argomento anche un pochino spinoso. Basta vedere quanto ci arrabbiamo quando qualcuno, diciamo, ottiene casa magari in maniera non proprio limpida e alla possibilità di tutti qua. La casa non ce la possiamo portare, però io, diciamo, simbolicamente qualcosa di una casa italiana vorrei metterla nel posto 22, che è il posto che segniamo oggi. Quindi lo chiedo a voi: che pezzo di casa, che oggetto, che mobile, che angolo della casa potremmo portare nello spazio? Una cosa, insomma, che ci stia nella nostra astronave, nel posto numero 22, una cosa, diciamo, trasportabile. Sceglietela voi e diteci perché, per quale motivo proprio quel pezzo, quell'oggetto rappresenta meglio di altri la casa degli italiani. 800 24 00 24. Posto numero 21, in attesa di assegnazione. Allora, ieri abbiamo parlato di programmi televisivi e devo dire che, insomma, l'avete capito anche in diretta, la stragrande maggioranza degli ascoltatori ha scelto trasmissioni dal passato. Poi magari il passato è più o meno recente, c'è chi ha detto Sergio Zavoli, Studio 1, la TV delle ragazze, il Maurizio Costanzo Show, e pochissimi programmi, diciamo, tuttora in onda hanno avuto delle segnalazioni. Li cito: Anno Zero, Report, Blob e SOS Tata, che è una cosa che a me, diciamo, ha colpito tantissimo. Alla fine, diciamo, la sintesi di questa nostalgia, ma anche di bisogno di leggerezza, è stata forse nei molti voti che hanno avuto i programmi di Renzo Arbore degli anni 80, quelli della notte, Indietro Tutta. Quindi mandiamo Indietro Tutta, che è stato il programma più votato, o meglio, a simbolo di Indietro Tutta ci mandiamo il Cacao Meravigliao, che, insomma, all'epoca, insomma, era questo prodotto fittizio pubblicizzato nel programma. All'epoca c'era stato anche grande enfasi sul fatto che la gente andasse nei negozi a comprare il Cacao Meravigliao, che i negozianti, ricordo ancora le immagini al TG, dovevano esporre cartelli con scritto "non vendiamo il Cacao Meravigliao". Il Cacao Meravigliao non si produceva, poi qualcuno ci ha provato e ovviamente non se l'è comprato nessuno, hanno dovuto, diciamo, ritirarlo dal mercato. Mandiamo il Cacao Meravigliao in rappresentanza di Indietro Tutta. Posto numero 21, assegnato. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. 800 24 00 24, diteci qual è il pezzo di casa che mandreste nello spazio, l'oggetto più rappresentativo della casa degli italiani. SMS anche al 349 238 6666. Su Twitter abbiamo un hashtag che è Dallo Spazio e su Facebook abbiamo ovviamente una pagina che si chiama come il nostro programma, L'Italia vista dallo spazio. Siccome la casa è un argomento, diciamo, complesso, io ho pensato di aprire facendo una chiacchierata sulla casa e su come gli italiani vedono e gestiscono le loro case con una persona che è entrata negli ultimi anni in un numero, diciamo, probabilmente senza precedenti di case, forse l'agente immobiliare più famoso d'Italia e soprattutto la conduttrice di due programmi cult su Real Time, che sono Vendo Casa Disperatamente, Cerco Casa Disperatamente. Con noi Paola Marella, benvenuta. Grazie. Grazie, grazie di avermi invitato. Beh, come potevamo non chiedere a te intanto come sono messe le case degli italiani? Per gli italiani la casa è la cosa più importante, ma poi io guardando il tuo programma vedo che insomma c'è di tutto, si trovano vette di grande creatività, ma anche diciamo a volte scivoloni di ogni tipo. Hai proprio ragione, vette di grande creatività in tutti i sensi, perché l'italiano, come giustamente hai detto, per lui la casa è in assoluto il bene più importante, quindi ci tiene moltissimo. A volte, tenendoci forse anche troppo, si rischia di fare degli azzardi a volte, e questo è un po' il rischio che noi riscontriamo più frequentemente. Ecco, guarda, prima di chiederti, di farti la domanda vera di questa puntata, che è qual è l'angolo della casa che tu preferisci e che salveresti, noi notiamo in questo programma una certa forma di nostalgia degli italiani, che insomma sono spesso molto attaccati alle cose del passato e a cose che magari a volte non sono nemmeno più utili o rispondenti diciamo al tempo che viviamo. Quali sono le cose che tu vedi nelle case degli italiani e che diresti, beh, forse dovremmo lasciarle un po' da parte, non c'è bisogno di portarcele dietro? Ecco, gli italiani, noi tutti tendiamo a raccogliere, a stratificare, cioè i ricordi, gli oggetti, le cose, i libri. Ecco, questo è il primo impatto che io ho entrando nelle case, ma non ti nascondo che anch'io per prima ogni tanto periodicamente faccio del grande ordine, perché la tendenza è quella di raccogliere. E invece a volte le case andrebbero magari lasciate un po' più libere di respirare, perché questi oggetti stratificati, libri, riviste, cose in generale, secondo me disturbano proprio magari anche dei bei saloni, delle belle zone, anche delle belle camere. Se tu metti troppa roba dentro rischi di perdere di vista come invece è stata fatta bene, una scelta di colore, una scelta di tessuto. Ecco, si rischia di creare un po' di confusione. Quindi io la prima cosa che dico è sempre mettere grande ordine. E a questo punto, Paola, devo chiederti qual è la stanza preferita, l'angolo della casa italiana che tu vorresti salvare? Io comunque sempre il salotto, perché trovo che sia la zona cioè dove ci si ritrova la sera. Comunque tutti ormai, la mamma e il papà di qualsiasi famiglia generalmente sono entrambi lavoratori, con i ragazzi magari adolescenti che tornano, varie giornate pienissime tutte di attività, di cose, ci si ritrova la sera, e secondo me è il momento proprio un po' della collettività, più che la cucina, che io devo dirti non amo cucinare, per cui io in cucina ci starei il meno possibile. Io adoro il salotto, anche perché il salotto comunque ti dà quell'idea di condivisione di spazio, che può anche essere un momento in cui uno magari ha da fare, da lavorare a qualcosa, cioè può essere l'angolo computer, ci possono essere uno spazio polifunzionale, quindi direi che è lo spazio della collettività, della famiglia. Quindi forse anche lo spazio nazionale, cioè può essere il simbolo dell'Italia, visto che noi siamo considerati un popolo molto socializzante, molto accogliente. Ma guarda, noi siamo un popolo molto socializzante e accogliente, purtroppo in questi ultimi anni, tra secondo me i pensieri, tra il fatto che l'era del computer eccetera ha cambiato proprio, ha modificato le abitudini delle famiglie anche italiane, che sono, come giustamente dici tu, molto socievoli, conviviali. Invece c'è la tendenza a chiudersi magari in una stanza, sai, questi social network eccetera. Ecco, io trovo che il salotto può essere proprio il punto di incontro, invece, dove magari tra virgolette si è quasi obbligati, si fa per dire, insomma, alla chiacchiera, all'invito con gli amici, insomma, a trovarsi. A meno che non ci si sieda sul divano con davanti un tablet. Vabbè, hai ragione. Sì, va bene, però facciamo così, tanto diamo questo consiglio, questo input, salotto e salotto bello sgombro, buttando via il possibile. Benissimo, direi che è un gran consiglio. Grazie Paola Marella, ti ritroviamo a Cerco Casa e a Vendo Casa Disperatamente. Grazie a voi, grazie, buona giornata. Oh, 800 24 00 24, qual è l'oggetto della casa italiana che scegliereste da lanciare nello spazio? Siamo partiti dal salotto, dal soggiorno, che insomma è una scelta molto forte, ma non è l'unica. Io sto leggendo adesso gli sms al 349 238 6666, e Marina da Milano dice: mi si perdoni, ma l'italianissimo bidet che all'estero sembra un oggetto sconosciuto. E abbiamo anche un altro ascoltatore che dice: il bidet ce l'abbiamo solo noi. Io penso, se alla fine mettiamo un bidet nello spazio, guarda, basta firmarlo, lo firmiamo e diventa subito un'opera d'arte, un momento di grande design italiano. Sì, sì, lo troveremo un modo per renderlo una cosa molto più poetica. Ci sono voti che poi vi leggerò anche su Facebook e su Twitter. Voi intanto continuate ad esprimere le vostre preferenze. Io vorrei sapere la preferenza anche del nostro prossimo ospite, che è un consulente di comunicazione, ma anche uno scrittore, Danilo Masotti. Benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Danilo, allora, intanto, tu che rapporto hai con la casa? Ci stai, non ci stai? Sei uno di quelli che sta sempre fuori, che si asserraglia in casa e non ne esce più? No, io sto molto in casa perché, lavorando con le tecnologie, ho la fortuna di riuscire a lavorare da casa, quindi riduco al minimo gli spostamenti quotidiani, ecco, quindi io sono praticamente sempre in casa. E qual è l'angolo della casa dove stai di più e quello che trovi più significativo? Allora, l'angolo della casa dove sto di più è il mio studio, che praticamente è una PlayStation totale, dove lavoro, gioco e testo le mie relazioni. Ma però, come oggetto, diciamo, della vostra trasmissione, io nello spazio manderei il divano. Il divano, che l'ha detto anche l'ospite precedente, ha parlato di soggiorni, ha parlato di divano, ecco, però il divano come nuovo baluardo e ultimo baluardo della rivoluzione che è in atto, perché a differenza di quello che veniva detto prima di questo idilliaco salotto socializzante, invece il divano e il salotto in generale sono dei luoghi anche dove le persone si isolano e, come hai detto anche tu prima, cioè si mettono un tablet in mano e ultimamente inveiscono contro la televisione, inveiscono, che però i fighi dicono interagiscono con la televisione. Che non interagiscono come ai tempi di Mike Buongiorno con il quizzi, che era quella cosa con cui dovevi cliccare per rispondere ai quiz, ma interagiscono tramite internet ormai. Interagiscono tramite internet tra di loro e soprattutto utilizzando il social network Twitter, dove vi segnalo la presenza di un gruppo che si chiama appunto Indivanados, dove sono persone sedute sul divano che, guardando trasmissioni che possono essere, non so, Ballarò, Porta a Porta, le trasmissioni di Santoro, tutte le trasmissioni, diciamo, di attualità, l'Indivanados che cosa fa? Sta seduto sul divano e twitta e crea un gruppo d'ascolto insieme ad altri telespettatori e tra di loro dicono: no, questo ha sbagliato, no, io avrei fatto così, no, io avrei fatto così. E la cosa che accomuna tutte queste persone è l'indignazione. Solo che gli spagnoli hanno gli indignados che scendono in piazza e noi abbiamo, ecco, gli indivanados che rimangono ben comodi, cioè dice qualcosa di noi. Mandiamo, sì, il divano in quel senso? Sì, in quel senso, loro prendono proprio nome dagli indignados spagnoli, però diventano indivanados, e coi quali io sono anche abbastanza in rotta, perché io dico, nel mio recente libro Ci meritiamo tutto, dico: sì, io guardo le trasmissioni così, poi il giorno dopo non succede niente. E invece gli indivanados dicono: no, ma come no, noi invece, cioè, cominciamo a creare la rivoluzione in questo modo e il giorno dopo come non succede niente? Il giorno dopo, davanti alla macchinetta del caffè, parliamo di questi argomenti. Troppo, i pezzati piccoli sono già tutti presi. Ma venga, venga, venga, lei è fortunato. Ne è rimasto uno doppio, luminoso, confortevole e spaziosissimo. Prego, prego. Contento? Bello, l'ingresso è bello. Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotto e water closet, è tutto qui. È il risultato di accurate ricerche a dimensione d'uomo, guardi qua. Angolo cottura, angolo intimo, angolo doccia con relativo spogliatoio, angolo ricreativo, angolo TV, Questo era un pezzo del film Ragazzo di Campagna, penso insomma lo conosciate tutti. Devo dire che poi si dice che il cinema italiano non è capace di visioni futuristiche. Io ogni volta che rivedo questo film penso che piano piano ci avviciniamo senza dubbio a quella casa con tutti gli angoli e dove la finestra è superata, come diceva l'agente immobiliare. Allora, stiamo insomma cercando di capire quale oggetto potrebbe rappresentare la casa italiana, quale stanza, quale angolo, quale pezzo di mobilio. Cominciamo a sentire anche un po' di ascoltatori che stanno chiamando l'800240024 e partiamo da Elsa da Treviso. Benvenuta. Pronto Elsa? Pronto. Eccoci. Che angolo della casa scegliamo? Io senz'altro sceglierei il fornello, il forno e l'angolo cottura della casa. Ma perché stiamo sempre a cucinare noi italiani? Ah, perché io sarà tipico della donna italiana, ma io sono anzianissima, però e anche vivo sola tuttora, ma continuo a cucinare e non mangio quasi mai cose già pronte, prese in negozio. Io cucino anche se sono sola. Va bene, è una vita che lo faccio e che mi piace tantissimo. Mi piace questo entusiasmo ed è il simbolo dell'Italia che continua a cucinare e a preferire le cose genuine, anche se poi non so se le mangia, perché insomma magari non è quello il punto. Sara da Bergamo, benvenuta. Buongiorno. Che cosa scegliamo? Ma io sceglierei il bidet. Il bidet è una cosa che è molto cercata, è molto richiesta nei nostri SMS soprattutto, ma visto che l'abbiamo al telefono, ci spieghi perché? È perché a lei proprio mai. La sento male, riusciamo. Pronto Sara? La sento un po' male. Comunque beh, perché all'estero non c'è, mi sembrava che dicesse. In effetti, insomma, questo è il classico problema. Forse sono le due cose di cui sentiamo più la mancanza all'estero: il caffè e il bidet. Non so se è una questione di desinenza e di assonanza, però probabilmente potrebbe essere questo uno scontro, perché vedo molti voti per la moka e per la caffettiera in generale. Io però andrei sul nostro terzo ospite di oggi, è una voce che qui a Radio 24 conoscete molto bene. Prima Paola Marella diceva che dovremmo avere il coraggio e la voglia ogni tanto di buttare quello che abbiamo in casa. Lui 2 anni fa si è venduto tutto quello che aveva in casa. È Matteo Caccia, benvenuto Matteo. Ciao Achille, buongiorno. Buongiorno, e visto che hai vissuto quell'esperienza, ti volevo chiedere intanto di tutto quello che ti sei venduto, se di qualcosa ti sei pentito e hai detto cavolo, la potevo tenere. Beh sì, ci sono delle cose di cui mi ero pentito, però in generale nel momento in cui ti liberi di qualcosa è giusto immaginare che quello è solo un oggetto, con tutto quello che ha portato, con tutta la storia che ha avuto, appunto, lo dice uno che ci ha fatto un programma sul fatto di aver venduto tutti gli oggetti uno ad uno, però in fondo alla fine è davvero solo un oggetto e le memorie che ti rimangono, se non ti rimangono voleva dire che non avevano diritto di rimanere. Però guarda, in assoluto l'oggetto, ma infatti poi lo dico ufficialmente, mi sono ricomprato uguale, è stato il materasso che avevo. Il materasso, io il materasso devo dire è un oggetto che sottovalutavo fino a qualche anno fa, poi ne ho dovuto comprare uno e ho scoperto che anche nei materassi c'è il mondo, cioè manca poco che ci siano le degustazioni di materassi con quello che si siede e poi fa, e qui sento un retrogusto di rosa canina. Cioè tu che materasso hai scelto? Qual è la tua, diciamo, la tua scelta di materasso? Guarda, io ho seguito il consiglio di un amico che mi diceva per la casa si può spendere poco su tutto ma non sugli imbottiti, spendi tanto su divano e materasso perché sono gli unici posti comodi su cui ti appoggi, e devo dire che lo divulgherei come consiglio a tutti quanti. Io avevo trovato un materasso che non avrei mai comprato se non ci avessi dormito un mese, perché ero fuori dall'Italia, ero ospite in una casa ed era un materasso particolare che poi quando sono tornato qua in Italia mi sono ricomprato dopo la vendita. È un materasso, guarda, chiaramente non farò nomi Achille, però è un materasso che è conosciuto come il materasso degli astronauti, perché l'azienda che lo produce, che è un'azienda svedese, ha brevettato questo materiale che sta sopra uno strato giattice normale come tutti i materassi moderni. C'è questo materiale che non ti posso dire il nome perché è lo stesso nome dell'azienda, sì. Ma per farti capire è il materiale che la NASA usa per imbottire i sedili dello shuttle. Questa è una candidatura fortissima perché noi dobbiamo mandarlo nello spazio, quindi ci sta. Però ti devo chiedere una cosa, si sente così tanto la differenza? Cioè se io ti bendo e ti faccio stendere su questo materasso e su un altro, tu da cosa te ne accorgi? Guarda, ma non io, Achille, tu lo riconosceresti tra 100, chiunque, perché è un materasso che ha una... loro dicono che allevia la forza di gravità. Guarda, potrei stare qua a mezz'ora a raccontare tecnicamente che cos'ha, è termosensibile e sorregge tutto il corpo, parti più leggere e più pesanti allo stesso modo, ma non voglio annoiare te gli ascoltatori, comincio a farlo da lunedì, quindi diciamo che mi fermo a dirti che quel materasso lì, e se mettete il materasso degli astronauti capite di cosa parlo. Va bene, ci proveremo, questa è anche l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che io da lunedì, a proposito di case, sgombro casa, diciamo la casa del... insomma di questa fascia oraria e ti riconsegno diciamo le chiavi del pomeriggio di Radio 24. Tu ricominci lunedì prossimo con il programma? Il programma è la seconda stagione di Voi Siete Qui, che parte alle 16 e sono ogni giorno una storia diversa, ogni giorno la storia di un ascoltatore, di una persona diversa. Va bene Matteo, grazie per essere stato con noi, ti ritroviamo lunedì, era Matteo Caccia, all'Italia Vista dallo Spazio. Grazie a te. Supremo, questo è un materasso meraviglioso, credetemi, è eccezionale e ancora oggi vi viene proposto un prezzo lancio. Supremo è perfetto. Beh, per devo tutta dire la che non venderà il materasso degli astronauti, però questo diciamo è il modo in cui la maggior parte dei materassi entrano nelle case degli italiani. Io ho una simpatia per Mastrota da quando una volta in un'intervista gli chiesero perché non vai a un reality, a fare un reality, tu potresti? E lui disse, ma se io vado a un reality, nel frattempo mettono un altro al posto mio a vendere i materassi e io perdo il posto di lavoro, come faccio poi dopo? E da io da quella risposta l'ho adorato. Gli sms che stanno arrivando al 349-238-6666 ancora una volta mi confermano una cosa, che riuscite a citare Berlusconi in ogni puntata. C'è un ascoltatore che ha detto il divano di Berlusconi, ma non era il letto, non era il lettone di Putin. Che cos'ha di particolare il divano di Berlusconi? Boh. E allora, intanto vorrei sentire un altro ascoltatore che aspetta da un po', Roberto da Cuneo, benvenuto. Buonasera a tutti, io sono Roberto. Dunque, io porterei... com'è la cantina? Perché la cantina è associazione, perché il salotto va bene, no? Tutto quanto, però uno che si sente a suo agio è soltanto la cantina. Ma la cantina perché... intendiamo la cantina quella, no, diciamo... No, il ripostiglio. Ah, la taverna, diciamo, esatto. Lo spazio, la sala hobby. Esatto, va bene. Di dentro, sì. Io non so se tutti ce l'hanno, Roberto, però soprattutto in città avere la cantina è un lusso e a volte insomma si intende la cantina del appunto quella dove ci butti dentro tutte quelle robe che non hai spazio di tenere in casa. Vediamo se c'è un'altra ascoltatrice. Enza da Brescia, benvenuta. Buonasera, sono in linea? Sì, prego, è in diretta. Buonasera. Allora, io volevo dire, sulla base dei ricordi della mia infanzia in cui vedevo la mia mamma lavare, fare bucati a mano, non avere tempo per noi, io nello spazio ci manderei una bella lavatrice. Una lavatrice, ma è il simbolo dell'Italia, no? Ce l'hanno anche dalle altre parti. Penso no. Che non è tipicamente italiana, sono no. D'accordo, però... insomma fa tante altre cose che non sono tipicamente italiane e io ci metterei quella. Va bene anche la lavatrice. Io raccolgo anche, grazie Enza da Brescia, raccolgo anche i voti di chi ha scelto cose non particolarmente italiane, tipo c'era un sms non firmato, devo dire, però che mi piaceva, sui nanetti da giardino che non sono italiani, come testimonia anche il film Il favoloso mondo di Amélie. Carmen vota la lampada Berenice, proprio un oggetto di design, c'è di tutto. E poi ci sono diversi voti, devo dire, per la moca, che effettivamente la moca potrebbe essere un modo per far rientrare il caffè, che il caffè ha perso nello scontro tra titani, tra caffè e vino, poi ha vinto il chinotto, e secondo me ci sono tutti i fan del caffè che stanno votando la moca per cercare di farlo rientrare dentro. Siamo così, popolo di ripescatori e di esperti di ricorsi al TAR, perché non ammetterlo? Io ringrazio Chiappini alla parte tecnica, Antonella Migliaccio in redazione, ringrazio tutti voi per averci ascoltato e perché continuerete a votare. L'Italia vista dallo spazio torna domani su Radio 24. Posto numero 22, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a Italia Vista dallo Spazio @radio24.it.